Polish 24. Buonasera da Marta Cagnola e da Giulia Crivelli. Questa sera ci preoccupiamo un po' di quello che succederà l'anno prossimo e nei prossimi anni, con delle previsioni che riguardano il futuro, talvolta delle previsioni un po' inquietanti. Lo facciamo grazie a un servizio che è contenuto nel nostro English 24 in edicola, ma noi abbiamo rubato in particolare l'audio del CD allegato. È un servizio molto interessante che è tratto da una pubblicazione che si chiama The Futurist, che ogni anno fa una ricerca un po' particolare, ma ascoltiamo di cosa si tratta in questo servizio. Read on to discover what nanopollution fallout is, if nano implants and nanoparticles are really dangerous, and if bioviolence could potentially cause new diseases. Will our children be studying comic book art instead of medicine? Each year since 1985, the editors of The Futurist have selected the most thought-provoking ideas and forecasts appearing in the magazine to go into our annual Outlook report. Eccoci qua, Giulia, abbiamo capito di cosa si tratta. Ogni anno questa pubblicazione fa una ricerca molto originale, molto peculiare, che riguarda delle proiezioni e delle previsioni sul futuro. Sì, è divertente perché noi ci veniamo consigliati di read on, cioè di leggere avanti, quindi di continuare a leggere, e poi forse in realtà la cosa divertente sarebbe vedere tra una decina d'anni se tutte queste previsioni di questo futurist sono state veramente azzeccate. Per esempio, ci invita a capire che cos'è la nano pollution fallout. Fallout, come read on, sono quei verbi corti, quindi read fall, a cui è stata aggiunta una particella e così cambiano di significato, anche se è quasi sempre molto intuitivo. Quindi fallout è naturalmente i residui, ciò che viene fuori dalla nano pollution. Tra l'altro si interroga questa introduzione su quello che potrà succedere in futuro, ad esempio ai nostri eventuali figli. Child, sappiamo, singolare; children è plurale, una delle pochissime parole inglesi, insieme a, tra le molto comuni, knife, che diventa knives, quelle che appunto cambiano al plurale rispetto al singolare, cambiano in modo significativo, non si limitano ad aggiungere la S. La forma interessante qui è la forma verbale, perché anziché chiedersi will our children study, che sarebbe anche corretto e vorrebbe semplicemente dire studieranno, usa una forma che dà più l'idea di un'azione che si protrae nel tempo. Infatti gli studi, come tutti sappiamo, durano molti molti anni, anzi c'è chi dice che bisogna continuare a studiare tutta la vita. Quindi non will our children study, but will our children be studying, quindi staranno studiando letteralmente. E cosa staranno studiando? È divertente qui appunto capire se studieranno the comic book art, e questo è significativo secondo me. Comic book naturalmente sono i fumetti, no? Comics sono le strisce e comic book sono i libri di fumetti, ed è in Italia quasi nessuno la considera un'arte, mentre all'estero, soprattutto nel mondo anglosassone, la viene anche definita la settima, l'ottava arte, quindi il fumetto come appunto una forma artistica, e chissà, in futuro forse i libri di storia saranno libri a fumetti. E chissà se davvero allora i nostri figli studieranno su libri a fumetti. Beh, questa potrebbe essere una delle previsioni provocatorie, queste provoking forecast del Futurist, ma andiamo a sentire proprio il primo punto di queste strane previsioni. Number one. Everything you say and do will be recorded by 2030. By the late 2010s, ubiquitous, unseen nanodevices will provide seamless communication and surveillance among all people everywhere. Humans will have nano implants, facilitating interaction in an omnipresent network. Everyone will have a unique internet protocol, IP address. Since nano storage capacity is almost limitless, all conversation and activity will be recorded and recoverable. Beh, allo stesso tempo affascinante e inquietante. Intanto ci stanno dando delle previsioni non vicinissime, non stiamo parlando proprio del 2009, ma un po' più in là. E forse proprio per farci capire che siamo appunto nel 2000, lei dice by 2030, e sappiamo che in realtà quando nel caso degli anni che sono fatti di quattro cifre, molto, molto spesso gli inglesi lo spezzano, quindi lei avrebbe potuto dire by 2030, che però forse appunto usando la parola 2000 ci dà più l'idea del futuro, no? Il 2000 è sempre stato diventato il simbolo del futuro anche in tanta letteratura. E poi subito dopo dice by the late 2010s, anche qui scritto 2010 con l'apostrofo e poi la S, un'espressione che non possiamo usare in italiano perché la nostra lingua è così diversa, invece l'inglese si diverte a fare queste cose, noi dobbiamo dire nell'ultima decade degli anni 2000 per esempio, oppure diciamo negli anni 20 quando ci riferiamo al secolo passato, e loro lo possono fare con qualsiasi decade, basta fare questa piccola operazione dell'apostrofo con la S. Quindi noi adesso ci stiamo collocando tra il 2010 e il 2030 e parliamo di nano devices. Sì, nano devices, nano abbiamo sentito quanto l'hanno usato anche prima, naturalmente come in italiano lo si può mettere prima di qualsiasi altra parola. In questo caso viene messa prima di device. Device è una parola fantastica perché è nata un po', penso, con l'elettricità, e quindi tutto quello che era un apparecchio elettrico poteva essere un device, e in questo caso naturalmente diventa invece un apparecchio elettronico o un nano apparecchio. Comunque in generale è qualche cosa che ci aiuta a fare qualcos'altro, quindi un marchingegno, ecco. Nano, quindi piccolissimo, insomma un prefisso che viene utilizzato spesso in questo estratto, e ci sono invece due suffissi che tu hai sottolineato che vengono utilizzati in queste parole. Spiegaci un po', Giulia. Anche qui magari lo potesse, o meglio, boh, chi lo sa se è meglio o peggio. Comunque gli inglesi usano questo modo di metterli alla fine e così modificare il senso delle parole. Noi invece dobbiamo spesso usare delle perifrasi, per esempio seamless, noi dobbiamo dire senza cuciture, seam sono le cuciture. In questo caso naturalmente è detto di circuiti, quindi vuol dire senza soluzione di continuità, addirittura dovremmo dire noi. Comunque basta attaccare quel less e subito dopo lui dice limitless, quindi senza limiti. Noi dobbiamo sempre usare almeno due parole, gli inglesi ne usano una, e in generale anche più corta delle nostre due messe insieme. Invece l'altro è molto simile a qualcosa che accade in italiano. Sì, qui è able, come da noi usiamo è abile, e qui è usato in recoverable, quindi recover, recuperare, recoverable, recuperabile, però non so, bearable, che vuol dire sopportabile, bear, to bear, sopportare, bearable, sopportabile, bearable, sopportabile, esattamente quindi come in italiano. Ma passiamo alla seconda previsione del Futurist. Number two. Bioviolence will become a greater threat as the technology becomes more accessible. Emerging scientific disciplines, notably genomics, nanotechnology, and other microsciences, could pave the way for a bioattack. Bacteria and viruses could be altered to increase their lethality and to evade antibiotic treatment. Another long-term risk comes from nanopollution fallout from warfare. Nanoparticles could potentially cause new diseases with unusual and difficult-to-treat symptoms, and they will inflict damage far beyond the traditional battlefield, even affecting future generations. Ecco Giulia, abbiamo sentito parlare di tanti nano nell'estratto precedente, è tornato con la nano pollution, cioè diciamo il nano inquinamento, il nanoparticles, le nanoparticelle, ma noi abbiamo iniziato questo estratto con un altro prefisso che è bio. Bio, che anche qui in questo caso tipicamente sappiamo che la I va letta I, tranne naturalmente le mille eccezioni, in questo caso invece l'eccezione non c'è, perciò bio come biology, come biodynamics. E poi c'è un'altra cosa interessante da notare, genomics, che naturalmente vuol dire la genomica. Spesso molte scienze, naturalmente ci sono le eccezioni, chemistry per esempio e chimica, però molte scienze vengono indicate con la S finale, quindi physics è quella che noi chiamiamo fisica, o genetics è la genetica, e appunto genomics. Parliamo appunto di bioviolence, di violenza biologica, parla di alcuni rischi in particolare, rischi peraltro a lungo termine. Long term risk, quindi come lo diciamo noi, qui la forma scritta è leggermente diversa, nel senso che spesso poiché long term è come se fosse un aggettivo della parola rischio, allora vengono spesso le due parole vengono unite da un trattino, cosa che succede anche subito dopo quando parla di difficult to treat diseases. Quel difficult to treat, e lo troverete spessissimo anche in modi più fantasiosi, questa costruzione delle parole che diventano aggettivo, difficult to treat è separato da due trattini, quindi difficult trattino to difficult treat, e vuol dire che appunto è tutto relativo alla stessa cosa, cioè al disease, una malattia difficile da curare. Treat è più che trattare, curare. A proposito di parole che assomigliano a parole italiane, tu evidenzi anche dei false friends in questo passaggio. All'inizio notably, che non vuol dire notoriamente, ma significativamente, cioè una cosa che si nota e quindi è significativa, perciò appunto è un non da tradurre come notoriamente. E poi un altro, affecting, non ha niente a che vedere con l'affetto, ma invece significa avere un effetto, perciò affecting è qualcosa che ha un effetto su qualcos'altro, lo si può usare sia in senso figurato che in senso pratico. Ultimo passaggio dal futurist dal nostro English 24. Number 3. The car's days as king of the road may soon be over. More powerful wireless communication that reduces demand for travel, flying delivery drones to replace trucks, and policies to restrict the number of vehicles owned in each household are among the developments that could thwart the automobile's historic dominance on the environment and culture. If current trends were to continue, the world would have to make way for a total of 3 billion vehicles on the road by 2025. E qui si parla della fine del regno delle automobili, cioè cars days may soon be over. Sì, noi usiamo più spesso invece il tempo, no? Sarà finito il tempo delle macchine. Invece in inglese si usa anche time, però più spesso days, quindi saranno finiti i giorni delle, quindi days may soon be over. To may naturalmente sappiamo che è usato come noi useremmo il condizionale, quindi potrebbero presto essere finiti, to be over vuol dire caput, finiti i giorni delle macchine. Questo regno delle automobili deve finire per forza, perché altrimenti dovremo fare spazio a quante automobili? 3 billion vehicles. Oh, qui naturalmente è diverso dall'italiano, noi diciamo 3 milioni plurale, in inglese invece billions ce l'ha il plurale. Per esempio ricordo un bellissimo libro di Carl Sagan, Billions and Billions, ma in questo caso quando lo affianchiamo a un numero resta singolare, quindi 3 letteralmente milione di veicoli, di macchine. Il nostro tempo radiofonico anche per questo sabato si è concluso. Ringrazio in regia Carmelo Lauricella, da Marta Cagnola, Giulia Crivelli, l'augurio di una buona serata.